andrà. Chi viene rischia da papà e così mo mi stavo compagna. Passavo si foia come un battaglio. Marcio, marcio, marcio, marcio. Da so capire a boire de Sion. Marchons, marchons, marchons.